Se accennassi a dei fatti che per voi sono completamente oscuri, potete eventualmente chiedere. Ecco, allora partirei. I testi di cui mi sono servito sono soprattutto questo volume di Hubert Jedlin, Das Konzil von Trient, Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte. Mi scuso con questa lingua che non è così forse alla portata di tutti. Ma Jedlin stesso definiva questo libro forse il suo più bel libro, proprio perché esplorando la storia della ricerca, la storia dell'indagine, è un libro è la storia dell'indagine del Concilio di Trento, no? E questo, volevo o no, va a toccare dei punti importanti. E in qualche modo costituisce un itinerario alternativo per approcciare il Concilio di Trento. No? Lui scrisse questo libro già nel 48, quando cioè non aveva ancora edito il primo volume della sua grande storia del Concilio di Trento, che usciva l'anno seguente, il primo volume, per terminare nel 1975. Però in realtà lui era già dal 1925 che si occupava del Concilio di Trento e dunque era già perfettamente in grado così, di scrivere un volume così impegnativo come quello della storia, della storiografia sul Concilio. Seguo questo e poi alcuni articoli, quelli che ho segnato poi nel programma che riceverete. Allora, prima di tutto, vediamo che cosa sono queste fonti, quali sono, che cosa contengono. Il complesso delle fonti del Concilio di Trento, che soltanto recentemente possiamo dire di essere in grado di dominare, dopo che è stata portata ormai quasi a termine, non ancora del tutto, l'edizione delle fonti del Concilio della Görres curata dall'Istituto Scientifico Cattolico Tedesco, la Görres Gesellschaft. Bene, le fonti del Concilio di Trento sono ad esempio una prima classe atti in senso proprio, cioè carte ufficiali del Concilio e questo va dai decreti ai protocolli delle sessioni verbali, diciamo, riassunti ufficiali. Ecco. E il grande segretario del Concilio è Angelo Massarelli. Da San Severo, mi pare, nelle Marche, lui era venuto a Trento come segretario del cardinale Cervini, uno dei tre legati del Papa, no? Non era venuto espressamente per fare il segretario in un primo tempo, ma soltanto in servizio del cardinale, cioè segretario del cardinale, ma non del concilio. Il segretario del concilio era stato nominato all'inizio del 1545, ecco, tenete presente, il concilio comincia nel dicembre del 45. Era stato nominato Ludovico Beccadelli di Bologna, che era segretario di un altro cardinale legato, il cardinale Reginald Pole. No? Uno dei personaggi più interessanti poi anche della riforma cattolica è così questo Ludovico Beccadelli. Ma Massarelli Beccadelli diede presto forfè, diciamo, ancora prima che fosse cominciasse proprio il vero e proprio concilio. In ogni caso Angelo Massarelli comincia il 1° aprile 1546, questo vuol dire a 4 mesi circa dall'inizio del concilio stesso. E noi abbiamo molta documentazione di questo ecclesiastico. Forse addirittura iniziò a fare questo lavoro ancora senza gli ordini minori, qualcuno adesso sembra smentirlo. In ogni caso, non era ancora, diciamo, un prelato in carriera, doveva guadagnarsela. Il suo lavoro fu molto duro e fu molto continuativo, sembra quasi una cosa incredibile. Lui fu segretario del Concilio per 18 anni, lungo tutto il periodo. Sono pochi, pochissimi in assoluto i personaggi, sia come padri conciliari che come teologi, che hanno partecipato all'intero evento conciliare dall'inizio alla fine. Di lui abbiamo allora abbiamo due tipi di fonti, protocolli e diari. I diari li vedremo dopo. Per intanto ci atteniamo a questa classe di atti e protocolli. Lui faceva delle note di suo pugno durante i lavori del concilio e poi eventualmente le stendeva in bella copia. Se poteva si faceva dare anche delle carte che i teologi o i padri stessi avevano sotto mano nel mentre loro proponevano il loro voto, la loro proposta, e se poteva acquisiva gli atti anche quelli. Nel terzo periodo il suo lavoro fu molto inceppato da problemi di salute e poi anche da un enorme lavoro, perché il terzo periodo è veramente la grossa dimensione del concilio, mentre i primi due periodi hanno una dimensione molto minore, no? E dunque nel terzo periodo tutto quanto, insomma anche gli aspetti logistici, ma poi anche la vera sostanza del concilio ha dimensioni diverse che non nei primi due. E così riceve degli aiuti il Massarelli nel terzo periodo. Massarelli è un tipo diligente, Iedin si diverte abbastanza anche nella storia del concilio, a presentare, a descrivere anche con una certa gratitudine, insomma, lo storico che si ritrova tra mano, per fortuna, le carte di questo diligente segretario, no? È diligente, volontarioso, coscienzioso, attaccato alla sede apostolica. Non brilla invece moltissimo come cultura teologica, no? Non potrebbe mettersi dentro nelle discussioni. Alle volte anche il protocollo delle discussioni risente un attimo di questa non eccellentissima, insomma, formazione teologica del segretario. Ecco, ci fu, fin dall'inizio, ci fu, sembra, in Massarelli e in Cervini, nel legato, una intenzione di pubblicare gli atti del Concilio. Questa è una storia molto, è un giallo un po', insomma, della storia del Concilio di Trento, la storia della pubblicazione degli atti, che non ci fu. In realtà, specialmente dei decreti, cominciavano abbastanza presto a circolare delle edizioni, ancora i decreti ad esempio delle prime cinque sessioni, cioè fino al peccato originale, e poi delle prime sette finché si parla di residenza. E anche Martin Buther ad esempio, cioè un riformatore, Giovanni Calvino, Filippo Melantone, anch'essi fanno delle edizioni ancora nel 46, dunque nel primo anno praticamente del Concilio, fanno delle edizioni di atti, ovviamente non, no, più che di atti, di decreti, non, ovviamente non autorizzate. La prima edizione autorizzata, autentificata anche dai legati, venne fatta a Bologna, sempre dei decreti, dovete distinguere decreti e atti. Decreti è il succo finale, diciamo, quello che è stato approvato. Gli atti e invece tutto il resto del materiale, tutte le proposte, le bozze, gli studi preparatori, eccetera. Bene, la prima edizione autorizzata di decreti è a Bologna nel 1548 e contiene materiale fino a settembre del 1547, cioè praticamente il primo periodo a Trento. Nel marzo-aprile del 47 il Concilio si sposta a Bologna, come sapete. Ai fini della pubblicazione, Massarelli rielaborò continuamente il suo materiale, e così noi abbiamo ancora adesso nell'Archivio Vaticano una serie di volumi, una buona 8-9 volumi delle varie elaborazioni, a cominciare dalle prime note, quelli che gli storici chiamano gli Urprotocolli, cioè i protocolli originari, quelli proprio che lui stese lì sul momento, fino alle copie che lui elabora successivamente. E questo sia del primo che del secondo e meno del terzo, perché protocolli nel terzo ne tenne meno lui stesso. Sempre con questa idea che prima o dopo bisognerà editarli a stampa. Quando Massarelli morì negli anni 70, legò, cioè lasciò alla Santa Sede il suo materiale. Questo oggi noi può sembrarci logico, in realtà per il 1500 non è sempre scontato che le carte che un personaggio ha presso di sé in funzione del ruolo che svolgeva vengano restituite all'archivio dell'istituzione che lui serviva. Tante volte le tiene lui, no? E questa è la difficoltà tante volte di raggiungere le carte. Ad esempio un caso molto abbastanza grosso è il nostro Ludovico Madruzzo, che di sicuro si è occupato di molte cose, ma ben poco del suo materiale è stato versato nell'archivio Vaticano, e quello c'è, e tanto altro materiale non si sa bene che fine ha fatto. Ci sono protocolli dei possedimenti dei Madruzzo del 1600 che segnalano dei materiali e così. In realtà oggi noi abbiamo ben poco, ad esempio, del Ludovico, no? E questo di fronte a 30 anni di attività incessante e ad altissimo livello per la Curia Romana, no? Anche Pio IV sembra avesse condiviso, cioè il Papa del terzo periodo, il progetto di pubblicare. Pio V e il suo successore, San Pio V, un domenicano che diventa Papa nel 1565 fino al 67, fino al 72, è uno di quelli che hanno grandi meriti per l'applicazione del Concilio. Ecco, lui bloccò il progetto di una pubblicazione degli atti. I decreti sono pubblicati invece. Nel 64 Paolo Manuzio stampa a Roma la prima edizione completa di tutti i decreti del Concilio. Perché no gli atti? Pio V si rifà all'ordine che aveva dato già Pio IV di non fare pubblicazioni non autorizzate dei decreti e di lasciare alla sede romana l'interpretazione dei decreti stessi. Quest'ultimo è il punto più importante. Si ha paura che pubblicare gli atti incoraggi poi la gente a imbarcarsi nel gioco delle interpretazioni, a fare un po' troppa dietrologia, diciamo, dietro al decreto, facendo l'esegesi degli atti. E dunque appartiene al progetto del monopolio dell'interpretazione dei decreti del Concilio anche questo aspetto del non dare, diciamo, pubblicità agli atti. E questo, diciamo, è un po' una storia molto problematica, perché questo diede buon gioco ai critici verso il Concilio, gallicani, eccetera, di sospettare che c'erano dietro le manovre, c'erano dietro delle manovre, che anche al Concilio ci sono state delle manovre. E la prova di tutto questo da parte della Curia Romana per indirizzare in una certa direzione i lavori, eccetera. E la prova di questo appunto sarebbe che non vogliono dare pubblicità agli atti. Indubbiamente questo ha molto incoraggiato la critica gallicana, giansenista, protestante al Concilio di Trento. Che persuase ancora anche a non dare gli atti in giro, fu il fatto che nacque negli anni successivi al Concilio e particolarmente virulenta alla fine del 1500, la discussione sul rapporto tra la grazia di Dio e la libera volontà dell'uomo. La discussione, la questione che va sotto il nome Deauxilis Gratiae, e aveva come suo, perno un libro di un teologo portoghese, Luis Molina, sui rapporti tra libera volontà dell'uomo e grazia divina. E questo tema teologico è al centro, delle riflessioni di Lutero, ma anche di Calvino e ormai prossimamente anche di Giansenio e dei giansenisti, e è tutt'oggi uno dei problemi così più insieme, più interessanti e più difficili. E siccome alla fine del 1500 tra tomisti in modo particolare e gesuiti per Molina, i tomisti contro Molina e per Bagnez, no? Dunque tra domenicani e gesuiti questa lite è molto forte, anche nel contesto di questo fatto gli atti vengono mantenuti sotto segreto. E poi furono le dispute che erano forti in ambiente gallicano francese sulla questione se adottare o meno in Francia i decreti del Concilio, in modo particolare quelli disciplinari. Può essere una questione che noi non comprendiamo immediatamente, dobbiamo tenere presente che il potere civile non lascia che la Chiesa faccia le sue cose, e questa non ritiene che le sue cose riguardino soltanto l'ambito ecclesiale, ma tutto quanto, insomma, è qualcosa che non è distinto delle due parti, ma è della cristianità. E dunque è normale, la Curia Romana si attende, domanda, che gli Stati adottino ufficialmente i decreti del Concilio. E qui è chiaro, vengono in questione soprattutto quelli disciplinari, quelli della Riforma, meno quelli dogmatici, insomma, no? Su questa questione torneremo dopo. Poi che cosa c'è di materiale? Finora gli atti, poi un altro corpus di documentazione del Concilio sono lettere. Abbiamo le lettere dei legati, cioè i dispacci. I legati dovevano attendere istruzioni, dovevano domandarne, dovevano riferire, c'è un intenso scambio. La posta va anche abbastanza bene, per lo più. C'è la posta ordinaria che parte da Trento ogni lunedì e ogni giovedì e mette di solito 7-8 giorni per arrivare a Roma. E la chiamano la cavalcata o la cavalcata ordinaria. Poi per urgenze c'è la staffetta che impiega sui 5 giorni. Per urgenze ancora ognuno si deve arrangiare e deve organizzarsi una corsa speciale, e è il Corriere Espresso il quale mette normalmente 3-4 giorni. Una volta impiegò 46 ore da Trento a Roma. No? Una prestazione indubbiamente notevole, però costava molto. È interessante, è un segnale abbastanza eloquente della fretta con cui il Concilio si concluse alla fine, per tutta una serie di motivi. Bene, alla fine di ottobre, in 8 giorni, 3 corrieri espressi vengono spediti da Trento a Roma. Questo non è mai successo nel resto del concilio, perché era molto costoso e era proprio qualcosa che si utilizzava soltanto se era strettamente necessario. Bene, noi abbiamo dunque le lettere dei cardinali legati, sono ad esempio nel primo periodo, sono il cardinale Reginald Pole, in inglese, Marcello Cervini e Del Monte, Giulio Del Monte. Il capo dei tre era Del Monte. Poi ci sono le risposte da Roma. Poi ci sono lettere private semiufficiali dei legati. Ad esempio un legato che scrive cose che non vuole sapere, non vuole che sappiano gli altri colleghi. Allora non unisce il suo, non mette la sua roba dentro nella lettera collettiva del team dei legati, ma fa una spedizione propria. Poi ci sono sempre dei legati, lettere ad amici. Ad esempio il cardinale Cervini è in corrispondenza con il segretario Bernardino Maffei. Ercole Gonzaga, cardinale presidente del terzo periodo, corrisponde con il suo nipote a Mantova Francesco Gonzaga, e Seripando con altri. Ecco, noi abbiamo anche, non sono ufficiali, ma per lo storico sono importanti anche questo, tutto insomma si utilizza. Poi, ad esempio, le lettere che vennero spedite durante il primo periodo al cardinale segretario del Papa Paolo III, che si chiamava esattamente come lui, Alessandro Farnese, queste non vennero versate all'archivio e si ritrovano attualmente disperse, non è giusto, sappiamo che ci sono, in tre archivi. E sono l'archivio segreto Vaticano, qualcosa, ma i fondi principali sono le cosiddette carte farnesiane del Museo di Capodimonte di Napoli e l'archivio di Stato di Parma, dove la famiglia Farnese finì lungo i secoli successivi. Oppure le lettere, le carte del cardinale Cervini, anche lui legato, e anche proprio quelle ufficiali, evidentemente quelle che riceveva, perché quelle che mandava stavano lì dove arrivavano, no? Quelle che riceveva sono ad esempio a Firenze. Ma non conta questo, basta un po' alla volta trovare dove sono. Invece non abbiamo nessun archivio, nessuna fonte del cardinale Del Monte e anche del cardinale Crescenzio, che è cardinale legato nel secondo periodo. Poi ci sono, il Concilio di Trento non è fatto soltanto di ecclesiastici. I principi secolari hanno un grande interesse a che cosa avviene al Concilio. Le materie sono comunque intrecciate. Se il Concilio riesce a far passare una riforma della Chiesa a suo modo, vale a dire per dare che riesca a dare alla Chiesa confini chiari, sottrarre competenze ai principi per poterle esercitare liberamente i vescovi. Ecco, tutto questo riguarda molto anche i principi. E dunque i principi marcano molto stretto il concilio. Hanno i propri oratori dentro nel concilio. Oratori vengono chiamati, sono gli ambasciatori. E così abbiamo tutta una serie di lettere di questi ambasciatori, dei vari sovrani, ai loro signori. Ad esempio degli oratori di Carlo V, il quale durante il primo e secondo periodo ne aveva qui tre di oratori: Diego de Mendoza, Francisco de Toledo, Francisco Vargas. Ad esempio, quando queste lettere del Vargas vennero scoperte nel 1699, furono un avvenimento, perché queste lettere presentavano il punto di vista, sì, imperiale, che era abbastanza critico in quel momento verso la linea dei legati, e così, insomma, specialmente la critica gallicana ebbe buon gioco nello scoprire questa fonte a dire, vedete, il papato ha manovrato gagliardamente nel concilio. Poi, ad esempio, ci sono le lettere degli oratori francesi, questi arrivarono, questi sono nel terzo periodo, del cardinale di Lorena, Carlo di Guisa, detto di Lorena, oppure le lettere dell'oratorio spagnolo, dell'oratore spagnolo Conte di Luna, che aveva sede qui a Palazzo Roccabruna, oppure nel terzo periodo le lettere degli oratori di Ferdinando I, che nel frattempo era diventato imperatore dopo la morte del fratello Carlo V. E poi dei rappresentanti di Venezia, di Savoia, di Firenze. Poi ci sono anche lettere di privati, gente che non aveva nessun compito o nessun ruolo, ma magari sotto sotto aveva ricevuto un incarico di scrivere. Ad esempio, questo fu il caso del vescovo di Viterbo, Sebastiano Gualterio, Gualterio, il quale ebbe una missione dal Papa Pio IV, durante il terzo periodo, di tener ben controllato il cardinale di Lorena, che era arrivato a Trento nel novembre del 62 e che arrivava con idee piuttosto anticurialiste, conciliariste, e che rischiava di far esplodere praticamente il concilio. Il Papa volle essere personalmente e espressamente informato sul comportamento, sulla linea di questo importantissimo prelato francese che aveva i suoi, li governava in pieno, ma era in grado di coalizzare anche l'opposizione spagnola e fare così un grande partito di opposizione. Fu il vero fantasma che inquietava i sogni dei legati e del Papa nel terzo periodo, fino ad una sua improvvisa svolta in senso non proprio curialista, ma insomma non più conciliarista, nella primavera del 63. Bene, abbiamo le lettere di questo Sebastiano Gualterio, e Hubert Yedin le trovò negli anni 30 nell'archivio della Pontificia Università Gregoriana, e così poté acquisire un corpus di fonti importantissimo per questa fase così delicata del Concilio di Trento. Poi ancora un caso simile lo abbiamo nel vescovo di Ventimiglia, Carlo Visconti, è di Milano, compaesano dunque del Papa Pio IV, siamo sempre nel terzo periodo, e qui si era creata a un certo punto una crisi di fiducia tra i legati, Simonetta da una parte, Gonzaga e Seripando dall'altra, Simonetta scriveva privatamente a Roma, il Papa non capiva più bene a chi doveva credere, e allora incarica il vescovo di Ventimiglia, Carlo Visconti, a scrivere lui su questa faccenda, su questa crisi di fiducia tra i legati. Con la prima edizione venne di questo anche importante corpus di lettere, venne fatta nel 1710. Beh, e poi ci sono tanti altri informatori non autorizzati che hanno magari semplicemente il desiderio di prepararsi una carriera di segretario presso qualche cardinale, e così gli scrivono, così nella speranza che quello gradisca, insomma, no? Ecco, poi abbiamo lettere del cardinale Reginald Pole, pubblicate nel 1744 fino al 57, e poi del Ludovico Beccadelli, che ho nominato prima. E poi anche altra gente, ad esempio una delle fonti importanti, lettere sempre, siamo a questo secondo genere, le lettere, Nunzio Calini, arcivescovo di Zara, al cardinale Cornaro, vescovo di Verona, sul periodo 1561-63. Terzo periodo, e altri. Veniamo a un terzo tipo di fonti importanti, i diari. E ne abbiamo di Massarelli, ne abbiamo di altri, è una delle fonti importanti. Si amava anche condurre un diario e tenere un diario. Un po' curioso è che non abbiamo nessun diario di un trentino. Nessun trentino si è preso la briga o il piacere così di scrivere. Poi conosciamo dei diari però scomparsi. Bene, i più importanti sono quelli di Massarelli, di Angelo Massarelli, questo segretario. Lui, oltre che tenere i protocolli dentro in sessione, lui si teneva un diario. Sono molto interessanti, alle volte descrive in maniera molto bella anche le ville, la zona specialmente qui suburbana, oppure Pergine. Quando porta i legati di qua e di là, lui tante volte si scrive un diario. E così, ad esempio, mi raccontava il signor Roger, è perfettamente individuabile il percorso della strada vecchia che da Trento va a Pergine, no? E proprio anche il racconto che fa Massarelli restituisce al vivo proprio anche l'orografia e l'itinerario vecchio che va verso Pergine. Bene, sono 7 i suoi diari. Molto importante quello dei mesi prima dell'inizio. Massarelli era qui da marzo del 45. Doveva preparare le case, tutti gli aspetti organizzativi, logistici, eccetera. E così abbiamo molte descrizioni proprio sui prezzi, sulla situazione della città, sulla sua capienza, eccetera. No? Tutti questi aspetti organizzativi. E in italiano. Molto importante anche il terzo diario, anche sui mesi precedenti al concilio e poi il primo periodo, dal 45 al 47. E poi anche nel periodo bolognese, quando nel 47 il concilio venne spostato a Bologna fino al 49, anche lì Massarelli tenne un diario molto accurato. Non così importanti o più aridi o più essenziali sono gli altri diari. Ma poi anche altra gente tenne dei diari, Torelli Fola, canonico di Fiesole, un Johann Baptist Fickler, procuratore dell'arcivescovo di Salisburgo. E più interessante per noi forse quello di un certo Laurentius Prae Pratanus, che lui intitola Epilogus, che lui scrisse probabilmente sollecitato dal cardinale Cristoforo Madruzzo, il quale si ritrovava alla fine del primo periodo senza aver in mano lui stesso un diario e probabilmente incaricò piuttosto in fretta questo Pratanus, che era un suo segretario, di metter giù un diario del concilio. Non avrebbe potuto fare molto di buono questo se non avesse avuto, come sembra, a disposizione il diario del vescovo Cappaccio, un vescovo del primo periodo. Diario questo del Cappaccio, poi più ritrovato, andato perso, così abbiamo quello del Pratanus, eccetera. Il vero repertorio delle fonti del Concilio di Trento è ormai, a partire dal 1901, la pubblicazione di fonti della Goresgesellschaft, una società di cattolici per dare impulso alle scienze, in modo particolare alle scienze in senso cattolico, anche se non ha tra le sue scienze la teologia, fondata al tempo del Kulturkampf prussiano, e come gesto creativo, insomma, di mettersi all'altezza delle facoltà teologiche prussiane e protestanti, con il darsi veramente una capacità scientifica adeguata. Ecco, nel 1893 un sottoarchivista, Heinrich Denefle, uno specialista di Lutero, suggerì che la Goresgesellschaft si assumesse l'impegno della pubblicazione delle fonti. ormai stavano dicendo, diciamo, stavano ormai non erano più attuali i divieti di un Pio V, no? Avevano fatto tra l'altro abbastanza male alla Chiesa, lasciando che chi trovava fonti le smerciasse, le utilizzasse al massimo, no? Un po' alla volta si cominciava a capire che la pubblicazione delle fonti, anche di quelle spinose, però non era in fondo il male minore e poteva anzi diventare una... Lo vedremo dopo parlando del Pallavicino, questo storico che ebbe a disposizione le fonti del Vaticano. Bene, vediamo come... prospetto, insomma, generale dei volumi del Concilio Tridentinum, sono anche qui nella biblioteca dell'Istituto. Ecco, la prima serie sono i diari. Si mise all'opera per questi diari all'inizio del 1900 questo Sebastian Merkle. Sono i diari di Massarelli, i primi 7 diari, più quello di Severoli e qualcun altro. Nel primo volume. Passarono 10 anni prima che uscisse il secondo volume, CT vuol dire sempre Concilium Tridentinum. Il secondo volume contiene, sempre a cura di Merkle, i diari di Massarelli, quelli parti che non erano state comprese nella pubblicazione di prima, il diario del Pratanus, il diario del cardinale Seripando e poi di altri padri presenti, in modo particolare importante quello del Guidi. Anche quello del Psom è importante, è un vescovo venuto con Lorena, è vescovo di Verdun, venuto con Lorena nel novembre del 62. Poi il terzo volume del Concilio Tridentinum, la prima parte, altri diari, Servanzio, Musotto, Gherio, Paleotti. Ecco, era già un po' pronto il secondo volume, ma andò in buona parte distrutto nel bombardamento di Würzburg nel marzo del 1945. Pensate alla disperazione di questa gente che lavorava, ci voleva, come vedete, una media di 10 anni ogni volume, perché si trattava di collazionare, di recuperare il più possibile tutte le testimonianze scritte, eccetera. È uscito da poco l'ultimo volume uscito finora, Concilium Tridentinum 3, parte seconda, da Umberto Mazzone di Brescia, uno anche uno studioso che ha contatti qui con l'Istituto Italo-Germanico. E sono in elaborazione un terzo tomo del terzo volume, altri diari ancora. Sono praticamente ancora soltanto due i volumi in elaborazione. Poi abbiamo gli atti, cioè sono i protocolli, e il concetto di atti dovete essere trovati un po' alla volta, perché cosa vuol dire atti? Vuol dire molte cose, ma vuol dire comunque soprattutto, ecco, verbali, protocolli, voti consegnati, eccetera. Quarto volume nel 1904, Stefanesis, si tratta di atti preparatori cioè dal 1536 fino al 45. Poi ci sono decreti di riforma della Chiesa e della Curia al tempo di Paolo III e quindi atti dell'inizio del Concilio. Segue il quinto volume, secondo di atti, sono contenuti lì i dibattiti decisivi sui temi del primo periodo, le fonti della rivelazione, il peccato originale, la giustificazione per fede, questo fino alla traslazione di Bologna. È chiaro che chi vuol capire bene che cosa hanno inteso i padri del Tridentino deve andare a vedere queste cose. E questi atti sono fondamentali oggi in quella questione sul valore ancora di separazione dei decreti tridentini, eccetera. È chiaro che per una ermeneutica dei decreti del Tridentino, nella quale si cerchi di recuperare degli spazi diciamo, di comprensione con i protestanti, andare a vedere bene gli atti, cercare di capire il più possibile che cosa ci sta dietro ad ogni parola del decreto stesso, la parola finale. Che cosa ci sta dietro? Ecco, questo lavoro critico è la strada maestra, diciamo, per andare verso, dal punto di vista scientifico. Poi ci sono tutte le altre dimensioni, evidentemente, dell'unità della Chiesa e dell'ecumenismo. Ecco, qui ad esempio, nel pubblicare questi atti si prendono i protocolli del Massarelli, ma lì dove si può, sempre le sue note originali, poi si va a vedere le copie che lui ha steso in vista della pubblicazione, eccetera. Insomma, fare un lavoro di andare e venire tra le diverse epoche, insomma, di queste fonti. Ci sono voti originali, proposti di voti originali vuol dire che cosa un padre ha detto o ha proposto circa un qualsiasi argomento. Di teologia oppure di disciplina, il loro testo. Sia che Massarelli sia riuscito, meglio ancora, se lui è riuscito a farselo dare, sia che invece abbia soltanto potuto trascrivere lui mentre l'oratore parlava. Dice uno storico dei concili, Efele, che era anche è della fine del secolo scorso. Vuole scrivere una storia del Concilio di Trento senza utilizzare appieno questi protocolli, vuol dire solo sporcare le carte. E lui non aveva ancora, evidentemente, questa edizione completa. Poi, un altro materiale riguarda di atti il periodo bolognese, sono i volumi 6 e 7, il volume 6 in tre tomi, 1, 2 e 3. Tutti curati da Theobald Freudenberger. Ci sono contenuti voti originali di padri e teologi sull'Eucaristia, sulla penitenza, sull'unzione, sull'ordine, il matrimonio, il purgatorio, le indulgenze. Il periodo bolognese dal 47 al 49 trattò prevalentemente materia tipicamente dogmatica e sacramentaria. Anche di questi volumi parecchio era già stato fatto, e era già in tipografia, era già stato composto, ma venne bombardata Freiburg e così molto di nuovo andò perso. Poi viene il secondo periodo, quello molto breve, a cavallo tra 51 e 52, ancora curati da Theobald Freudenberger, anche qui voti, prediche, eccetera. Il terzo periodo, dal 61 al 63, il primo volume di questo terzo periodo, cioè il Concilio Tridentinum VIII, l'aveva già messo a buon punto Stefanieses a Roma, presso l'Istituto Romano della Glorious Gesellschaft, al Collegio Teutonico, e scoppiò la guerra. E il governo invitò i tedeschi a lasciare la nazione, non c'era ancora lo stato della città del Vaticano, che invece nella seconda guerra servirà molto per tirar dentro gente perseguitata, no? E così lui si portò il suo riuscì a farsi mandare il suo malloppo in Germania. Vedete che esce il volume, uscì nel 19, proprio all'indomani della guerra. Sono i protocolli e atti fino al settembre del 1562. È l'ultima sessione solenne prima della grande crisi. Bisognerà aspettare poi il luglio del 63 per avere di nuovo l'approvazione di decreti al Concilio di Trento. E il nono volume nel 24, fino alla fine del terzo periodo. Poi un altro genere di fonti del Concilio Tridentino della Glorious Gesellschaft sono le lettere. E qui abbiamo due volumi curati da Gottfried Buschbell, ritenuti molto, molto preziosi, molto, molto validi. Ecco, qui abbiamo le lettere dei legati, è quello che dicevamo prima, tutto questo intenso scambio, specialmente dei legati in quanto rappresentanti ufficiali, ma anche dei legati in quanto persone private e di altre, tanta altra roba, no? Ad esempio, il secondo di questi volumi di lettere, Concilio Tridentinum XI, contiene 599 lettere del secondo periodo. Il primo, per il primo periodo, al tempo di Paolo III, ovviamente si serve molto dei fondi delle carte farnesiane di Napoli e le carte cerviniane di Firenze. Il terzo periodo non è contenuto, le lettere del terzo periodo non ci sono qui, perché tra il 1904 e il 1914 l'Istituto Austriaco di Cultura a Roma curò una importante edizione di lettere del terzo periodo. E poi ci sono i trattati, l'ultima serie di questi di queste fonti sono i trattati. E questo è stato il compito più difficile, non è ancora terminato. Trattati vuol dire produzione di teologi per il concilio. È, come dire, un membro intermedio tra la produzione teologica accademica in genere e i lavori del concilio. Questi sono trattati prodotti proprio in vista dei lavori del concilio. C'erano le cosiddette congregazioni dei teologi, che sono diverse dalle cosiddette congregazioni generali. Nelle congregazioni generali discutono i padri. Nelle congregazioni dei teologi sono i teologi che discutono, anche padri, su un punto in particolare. Questi sono lavori preparatori. Bene, antepreparatoria alle congregazioni dei teologi sono appunto questi trattati. Poi questo era materiale loro privato, se li sono portati via, oppure li avevano magari nel convento dove abitavano a Salamanca prima di venire a Trento, eccetera. E così questo è materiale che non è istituzionalmente concentrato, no? E allora chi ricerca deve veramente farsi gli archivi. Il primo volume di trattati, il dodicesimo, è fino alla traslazione a Bologna, e poi gli altri, insomma. È ancora in elaborazione il secondo tomo del tredicesimo volume, e è Klaus Ganzer, e ha come tema i memoriali di riforma. Klaus Ganzer sarà qui anche in settembre per il convegno dell'Istituto di Scienze Religiose sul Concilio di Trento. Veniamo un po' alla storiografia adesso. Ecco, dobbiamo partire con la... è chiaro che la materia concilio diventò subito molto importante, è in qualche modo un politicum essa stessa. Cioè, verso il concilio gli spiriti si dividono, i giudizi si dividono. O è, diciamo, la roccaforte per qualcuno, o è la sventura per qualcun altro, sia per se stesso che per la Chiesa in generale. Un primo storiografo del concilio è Johannes Sleidan, un tedesco che era qui come oratore della città protestante di Strasburgo durante il secondo periodo, ma abbiamo poca roba di lui. In generale bisogna dire che questa storiografia contemporanea del concilio è molto marcata dall'approccio confessionalistico e controversistico. Il concilio non è un oggetto di studio tranquillo, non c'è una distanza. ma ognuno prende partito direttamente e promuove la propria causa, facendo la storia del concilio. Non è ancora storia del resto. Anche i cattolici, ad esempio, vedono il concilio soprattutto e soltanto come rovina delle eresie, così ad esempio in Paolo Giovio. Ad esempio, loro non riescono ancora a cogliere quella che invece sarà l'importanza del concilio, che Iedin contribuirà molto a mettere a fuoco, cioè l'opera di riforma della Chiesa. Questi qua scrivono del concilio pensandolo e presentandolo essenzialmente come lo scontro tra l'ortodossia e l'eresia, tra cattolici e protestanti, e non vedono questo altro aspetto essenziale del concilio. Oppure qualcuno proprio lo scrive, ma non si accorge proprio di cosa parla, cioè non si accorge che sta parlando di una cosa molto, molto importante nella storia. E lui è completamente catturato, ad esempio Paolo Giovio nella Historiae sui Temporis, completamente così catturato dalla politica del giorno. Il Papa che lo deve accettare, i protestanti che glielo fanno accettare, anzi l'imperatore che glielo fa accettare, ma cogliere che qui è veramente un kairos, si direbbe come un termine teologico, cioè una vera chance che lo Spirito dà alla Chiesa, o che in ogni caso lì sta avvenendo qualche cosa di importante, no, si sta lì ancora a descriverlo, se ha avuto la precedenza l'oratore di Spagna o l'oratore di... che poi erano beghe forti lo stesso, comunque su queste cose, no? Ma non si riesce a cogliere la portata, no? Specialmente l'apporto ecclesiale di riforma, si stentano a coglierlo. E non si accorgono neppure che sta cambiando il mondo quella operazione lì. Oppure, ad esempio, sono opere che completamente ricalcate sugli interessi di chi scrive. Abbiamo, ad esempio, Juan Ginés de Sepúlveda, un uomo molto importante per il dibattito teologico anche nei confronti delle Indie, ad esempio, no? Nel suo De Rebus Gestis, Caroli Quinti, no? Il quale, ecco, lui è dalla parte dell'imperatore e specialmente in connessione con lo spostamento a Bologna, vede evidentemente in maniera del tutto negativa l'opera della volontà del Papa di spostare, o dei legati di spostare, il concilio a Bologna, fatto per il quale Carlo V si era arrabbiato tantissimo, perché gli rompeva i piani di portare i protestanti al concilio, proprio intanto che li stava sconfiggendo, no? Domani mi pare vedremo un po' meglio questo. Beh, ad esempio questo qua, insomma, vede in Paolo III soltanto colui che ha paura del conciliarismo e non, è difficile per lui capire un po' le ragioni del Papa. Oppure ad esempio i Giovan Battista Adriani nella Historia sui Temporis, sui è di Cosimo I de' Medici, negli anni stampato nel 1580, vede il concilio soltanto attraverso, diciamo, la lente di rifrazione medicea o di Cosimo, Cosimo come l'angelo custode del concilio, ecco. E anche solo politica, un po' come i giornali oggi quando parlano della CEI. Se mi posso permettere così cose extravagantes. Ecco, queste prime storie contemporanee sul concilio non hanno documentazione originale diretta, non hanno in mano i diari, i protocolli, eccetera, e il concilio soltanto come tema della politica del giorno, e al massimo del lavoro del concilio colgono che esso è la rovina delle eresie. Ma la sfida ecclesiale sul terreno della riforma che esso comporta, lasciando stare il fatto se la raggiunge tanto o poco, questo aspetto non lo colgono. Poi si occupano ancora nel secolo del Concilio stesso i protestanti molto. Giovanni Calvino, già nel 1547, in una prima edizione di Atti del Concilio, dà le sue valutazioni. E poi ne parla un po' lo storico della Chiesa luterana, Flaccius Illyricus, l'autore delle cosiddette centurie. Centurie vuol dire scrivere la storia a secoli, a 100 anni per 100 anni. È un metodo analistico, no? Come quello del Baronio contemporaneamente a lui, del resto. Ma il vero storico luterano del Concilio di Trento, che espressamente studia il Concilio, ma vedremo anche con quali limiti, è Martin Chemnitz, dalla città di Chemnitz. Examen Concili Tridentini, pubblicato a Francoforte 1563 fino al 73. I libri del Chemnitz costituirono quasi fino al 1800 l'arsenale dei rimproveri da parte luterana al Concilio di Trento, no? Dunque ebbe un grande impatto, e lui in modo particolare da parte dell'ortodossia luterana. Voi sapete che nella seconda metà del 1500 e poi nel 600 si costituisse una ortodossia luterana, vuol dire cioè anche all'interno del luteranesimo le discussioni di interpretazione oppure le varie linee in qualche modo si compongono e si forma una ortodossia luterana, cioè si sa bene adesso che cosa essere luterani vuol dire. C'è una dottrina, ecco, e questo fa la forza del luteranesimo. Chemnitz è rappresentante, diciamo, di questo approccio forte, allora, da parte dei luterani verso il Concilio di Trento. Però bisogna dire che non è una storia del Concilio di Trento, in realtà. Cioè, non c'è un lavoro diacronico sul Concilio, vederne lo sviluppo, capire le tendenze, individuare i movimenti, capire chi conta, chi fa il Concilio. Non entra dentro a vedere come si fa il Concilio, ma interloquisce con il Concilio soltanto in quanto cosa fatta, con i suoi decreti, dunque più a livello dogmatico quasi, che non storia del Concilio. Ecco, la dimensione storica non è qui raccolta. È una polemica controversistica, cioè sulle dottrine. E allora, ad esempio, si rimprovera il Concilio che non è un concilio cristiano, come lo avevano definito i luterani stessi, in quanto cioè si rifà alla sola scrittura, ma invece ricicla, per loro, insomma, direbbero così, la tradizione della Chiesa, la patristica, i concili passati, eccetera. Oppure che è un concilio soltanto clericale e che non assume tutto il popolo di Dio. Una risposta cattolica di un'andrada apologia Seu Defensio Decredorum Sacrosanti in Concili Tridentini, Lisbona 1575, sostiene invece: i decreti del Tridentino sono preparati con cura, le discussioni sono state libere, il fatto che hanno litigato lo dimostra. Ma poi dobbiamo venire soprattutto ai gallicani, i primi che cominciano a fare storia del Concilio, proprio perché sono interessati a vedere come è saltato fuori questo Concilio che va contro le presunte libertà della Chiesa gallicana, eccetera. Questi hanno interesse a vedere come è saltato fuori questo risultato, nell'idea che se io mostro come è saltato fuori, ne dimostro la debolezza, ne svelo le manovre, eccetera. Ecco, quindi i teologi o gli storici gallicani, vuol dire attaccati a questo modello di Chiesa che è abbastanza fortemente antipapale, sì, antipapale soprattutto, o meglio contro il primato di giurisdizione del Papa. Ecco, questi cercano di entrare dentro nelle pieghe del Concilio, proprio per vedere come esso si è fatto, così come si è fatto. E per questa via noi arriveremo anche al Sarpi. Allora vi risparmio i nomi e i titoli e vi accenno così a qualcuna delle argomentazioni. Sono da parte gallicana e da parte calvinista queste opere e queste critiche. E c'è uno scopo preciso da raggiungere, è quello di impedire la pubblicazione statale dei decreti del Tridentino in Francia. Cosa che avrebbe dato loro forza di legge, e il clero, anche i vescovi, chiedono continuamente alla corona che vengano adottati. In Spagna sono stati adottati, in Baviera sono stati adottati, gli Asburgo, se possono, anche li adottano, ma devono fare i conti con molti protestanti. L'impero, evidentemente, dal punto di vista ufficiale di impero, non ha potuto adottarli, perché l'impero adesso sono anche i protestanti, no? Ma in Francia la figlia beneamata della Chiesa, la figlia primogenita della Chiesa, le forze ecclesiastiche premono molto per questa adozione e corrono il rischio di riuscirci ogni volta che, come succede spesso nella seconda metà del 1500, la corona francese è debole e ci sono ad esempio le regine madri che sono reggenti, tipo Caterina de' Medici e poi Maria, eccetera. No? E allora lì il partito devoto cosiddetto, cioè quello più attaccato, diciamo, agli aspetti religiosi, cerca di approfittarne, mentre il partito dei politici, quello che non vuole mettere a repentaglio la pace del regno per i contrasti religiosi, frena. Ecco, in questo quadro si inseriscono queste polemiche sull'adozione statale dei decreti tridentini. Beh, qui che fanno difficoltà, che sono nell'occhio del ciclone, sono evidentemente i decreti disciplinari, pratici, non quelli dogmatici, che insomma, questi non creano difficoltà poi ai giuristi. Sono i giuristi dei parlamenti, i più tenaci avversari, quelli che sono in qualche modo i sacerdoti, le vestali delle libertà della Chiesa gallicana e dell'indipendenza del temporale del re de Francia dal Papa, cioè le sue competenze temporali. Bene, questa lotta viene condotta con molto materiale, con molte pubblicazioni. Ad esempio, la forza, ciò che si afferma, la forza giuridica dei decreti dei Tridentino è nulla. Sono in contraddizione con la prassi della Chiesa antica. È stato un concilio diretto dai papi, i concili antichi non erano diretti dai papi, e questo loro lo raccolgono e lo impiegano, lo giocano in un senso che non si può altrettanto dire, insomma, è vero che i concili dell'antichità non avevano i primi una presidenza papale, perché era tutto un momento diverso, ma ecco, qui poi sono problemi grossi evidentemente che non posso affrontare in fretta. In ogni caso, ecco, viene svalutato per questo. Poi lo vedono il Concilio Tridentino come poco rappresentativo. Che cosa vuol dire? A Costanza, ad esempio, nel 1414 fino al 18 i teologi avevano contato molto. I capitoli delle cattedrali erano stati rappresentati altrettanto che i vescovi. Era stato un concilio che aveva molto, diciamo, mostrato questo lato quasi aristocratico della Chiesa, cioè questa oligarchia diffusa, no? Ecco, al concilio di Trento i teologi hanno soltanto potuto lavorare, ma non in qualche modo votare. E poi i laici non sono rappresentati. Beh, c'erano gli oratori e così, ma senza diritto di voto, tranne mi pare in un caso. A Costanza invece c'era stata una grande partecipazione laicale, no? Di procuratori delle università, dei capitoli, eccetera. E poi questo concilio tridentino si era svolto all'insegna della superiorità del Papa sul concilio, che Costanza di nuovo aveva invece smantellato. E la Chiesa gallicana si era attaccata al concilio di Costanza, con la pragmatica sanzione lo aveva fatto diventare il patrimonio, diciamo, della vita della Chiesa gallicana. Infine i decreti disciplinari, quelli ad esempio che vorrebbero tenere fuori i laici dall'amministrazione, oppure eccetera, tante cose, sono contrari alle leggi dello Stato di Francia. E poi, ad esempio, ancora si dice, gli oratori francesi sono stati posposti a quelli spagnoli, e conosciamo le gagliarde quasi comiche beghe, no? Sul presbiterio del Duomo, ad esempio da San Pietro del 62, se ricordo bene, un andare e vieni dalla sacrestia finché si trova una soluzione di dove mettere se dare l'acqua santa agli spagnoli o ai francesi prima, eccetera, no? Beh, insomma, queste cose se ne ricordano e dicono... Poi, quanto ai decreti dogmatici, i gallicani non sono così duri, ma i calvinisti in Francia sono evidentemente contrari ai decreti dogmatici, e per via del principio della sola scrittura. Sono stati prodotti non in base al principio della sola scrittura, ma alle due fonti della rivelazione, scrittura e tradizione. Più di uno di questi scrittori finisse, quasi tutti all'indice, qualcuno anche in carcere, perché la corona temeva sempre questi legisti radicali che rischiavano di sollevare sempre dei problemi. Ancora qualcuno definisse il Concilio Tridentino un concilio, non libero, questo ormai è una delle critiche più frequenti, ma non canonico anche. È una innovazione. L'aver adottato assieme alla Bibbia la tradizione è visto da parte calvinista come una innovazione inaccettabile. E da parte gallicana si oppone che non ci si è comportati secondo le procedure dei sinodi della Chiesa antica, dei padri. Ancora ci si rifà, ad esempio, agli autori del tardo Medioevo, Marsilio da Padova, Gregor von Hainburg, Pierre d'Ailly, Giovanni Gerson, sono i grandi dottori della Sorbona del 1400, quelli che hanno fatto anche il Concilio di Costanza, che hanno prodotto la ecclesiologia conciliarista. Ecco, si oppone questi autori al Concilio di Trento. E poi anche le leggi dello Stato francese sono contrarie. Poi si rimprovera sempre che era dovere del Concilio fare la riforma, e su questo risultato il Concilio va giudicato, se può essere accettato o no, e loro dicono la riforma è stata ben poca cosa. Dunque non è venuto quel risultato che il Concilio era tenuto a dare, pena la sua validità o meno. È chiaro, loro cominciano dipende questo anche dalle fonti che loro utilizzano, cominciano già a girare le fonti, ad esempio, dei rappresentanti francesi al Concilio, oppure le fonti del Cardinale di Lorena al Re. Ecco, le fonti francesi, è chiaro che i quali avevano una precisa posizione al Concilio, sono fatte per incoraggiare molto questa lettura. Andiamo più avanti e veniamo al Sarpi, Paolo Sarpi. La sua intenzione è proprio questo, andare dietro le quinte del Concilio, e lui è persuaso che è avvenuta una manovra ai danni della vera riforma della Chiesa e della vera forma della Chiesa. E il suo intento è proprio di andarci dietro, vedere come è avvenuto e così poter riuscire a giocare la storia del Concilio contro la sua autorità. No? Sarpi matura abbastanza presto una forte avversione al papato e poi diventa l'ideologo e il teologo di Stato, lo chiama Jedin, della Repubblica di Venezia durante il famoso conflitto per le immunità nel 1606. Non ve lo posso adesso raccontare, è un grosso scontro tra Roma, fino a prendere le armi quasi, poi insomma cedono, più Roma che Venezia cede. Venezia in sostanza aveva processato due preti per reati comuni, sui quali invece il Papa rivendica il foro ecclesiastico, cioè l'autorità vanno giudicati dalla Chiesa e non dai tribunali dello Stato. Venezia, lo Stato non recede da questo per risposta il Papa lancia l'interdetto su tutta quanta la Repubblica di Venezia, questo era un'arma molto forte, no? E la Repubblica dà ordine a tutti i preti di non obbedire al Papa, ma di continuare a fare le messe, eccetera. No? Dunque si va veramente alla guerra totale. E Sarpi è uno di quelli che scrivono pareri giuridici per la Serenissima in questo conflitto. È chiaro che lui matura una concezione del Papa nella Chiesa, dei rapporti tra il Papa e le altre Chiese, o il Papa e il potere civile, che è precisa, insomma, no? E lui è in rapporti stretti anche personali con i teologi gallicani, quelli che anche per parte loro, in nome delle libertà della Chiesa gallicana, tendono a contenere il più possibile il primato papale. Il gallicanesimo come medicina di salvezza contro il centralismo romano, senza per questo si può dire Sarpi avesse voluto direttamente lo scisma. In ogni caso fu scomunicato, la sua posizione era chiara. Per Sarpi il concilio che venne convocato per fare la storia per fare la riforma della Chiesa, ve lo leggo direttamente dal suo, anche se fosse un po' più difficile, ma dal suo testo. Per Sarpi la Curia è riuscita nel Concilio di Trento a fare un capolavoro. Questo concilio che è stato convocato in qualche modo per introdurre la riforma nella Chiesa, questo voleva dire, comportava anche un troncamento di certe eccessive competenze della Curia, tutto questo, e non per niente la Curia vedeva con molto sospetto e paura, come sentiremo dopo, il Concilio, tutto questo la Curia è riuscita a ribaltare, insomma, a proprio vantaggio, trovando nel Concilio un potenziamento ulteriore del proprio primato. E quanto a riforma, appunto, nessuna riforma, ma una deformazione, no? E i vescovi che avevano bisogno che il loro ministero, il loro ufficio fosse rinforzato proprio per governare la Chiesa e per migliorare la Chiesa, si ritrovarono ad avere ancora più diminuita la loro autorità. Questo dice il Sarpi, no? Anche se quest'ultimo è difficilmente dimostrabile. Impero che questo concilio, desiderato e procurato dagli uomini pii per riunire la Chiesa che cominciava a dividersi, ha così stabilito lo scisma e ostinate le parti che ha fatto le discordie irreconciliabili. Ecco la prima accusa. Il concilio ha prodotto la spaccatura. E maneggiato dagli principi per riforma dell'ordine ecclesiastico, ha causato la maggior deformazione che sia mai stata da che vive il nome cristiano. Allora, non riforma, ma deformazione. E dagli vescovi sperato per riacquistare l'autorità episcopale, il concilio, passata in gran parte nel solo pontefice romano, l'ha fatta loro perdere tutta interamente, riducendoli a maggior servitù. Nel contrario, temuto e sfuggito dalla corte di Roma come efficace mezzo per moderare l'esorbitante potenza, da piccoli principi pervenuta con vari progressi ad un eccesso illimitato, la potenza romana lungo la storia, gli è là talmente stabilita e confermata sopra la parte restatagli soggetta che non fu mai tanta né così ben radicata. Sarpi è interessato a capire come è potuto avvenire, come questo è avvenuto. E lui dice ci sono le pratiche e bisogna trovare i documenti, peccato che non ce li danno. No? Il discorso del Sarpi è stato così incisivo che da questo momento in poi la non disponibilità di tutti gli atti ha lasciato la parola a Sarpi, praticamente. La storia del Concilio Tridentino venne pubblicata a Londra nel 1619 in italiano da un ex arcivescovo di Zara, apostata anche lui, pubblicata sotto lo pseudonimo di Pietro Soave Polano, arcivescovo di Spalato, Marcantonio De Dominis. Bene, protestanti, illuministi e anche nel Risorgimento Sarpi ebbe una grande fortuna. Nel momento in cui il Risorgimento vede, anche in base alla lettura di Machiavelli e di Guicciardini, vede come diciamo il temporalismo romano, lo stato della Chiesa, il potere temporale, come la causa della mancata unità d'Italia, è chiaro che sente una forte affinità spirituale e ideologica con questo campione, diciamo, del antitemporalismo e antiprimato romano. C'era bisogno di una risposta. Qualcuno pensò che il libro di Sarpi era stato un colpo mortale. Bisognava cercare una confutazione. Venne incaricato il prefetto degli studi del Collegio Romano, Terenzio Alciati, nel 1625. E lui individuò la linea giusta. Bisognava fare storia. Scendere sul terreno sul quale Sarpi voleva portare il discorso, cioè capire che cosa era avvenuto al Concilio, se c'erano state o no queste manovre e come. Ecco, in questo senso lui riesce a convincere, non senza dover vincere parecchie opposizioni, le autorità della Curia a utilizzare i protocolli del Massarelli, i diari, il materiale insomma della Curia. Nel frattempo la sezione Concilio era già arrivata a più di 70 volumi, il fondo Concilio. Oggi sono 155 volumi, il fondo Concilio nell'Archivio Vaticano. Quello che alcuni mesi fa Rai 3 aveva un attimo filmato proprio nell'Archivio Vaticano. Bene, Alciati si procura molto materiale e raccoglie, ma come più di una volta è successo nelle opere di storia, non ha più scritto la storia, no? E così arriviamo agli anni 50 senza avere ancora la risposta a Sarpi. Venne incaricato allora un suo più giovane confratello, Pietro Sforza Pallavicino. E professore al Collegio Romano, anche lui in filosofia e in teologia. E lui ormai ha molto materiale che Alciati con molto, molto acume ha raccolto, peraltro aveva ricevuto il severo monito a non fare nessuna copia di quel materiale, no? E in pochi anni, dal 1652 al 56, Pietro Sforza Pallavicino scrisse la storia del Concilio di Trento, storia del Concilio del Concilio Tridentino, Sarpi, storia del Concilio di Trento, Pallavicino. L'anno dopo dell'uscita del secondo volume, nel 57 venne fatto cardinale, in pettore per intanto e nel 59 anche pubblicato. E dunque lui ha materiale a disposizione. Tuttavia lui ha di fronte quasi, più che il Concilio, il Sarpi. Lui lo pagano non prima di tutto per scrivere la storia del Concilio, ma per scrivere la confutazione del Sarpi. Ora lui fa una confutazione sulle fonti, ecco, però, ecco, come dire, il taglio che lui dà al suo lavoro, molto documentato e dunque una vera tappa nell'indagine del Concilio Tridentino. Ma bisogna dire che lui veramente ha, diciamo, questo fine parallelo, no? Che è prevalente. E ad esempio conta anche gli errori del Sarpi, 361 ne conta, peraltro anche Ecce Cochleus al tempo di Lutero si erano dedicati a questo sport di contare gli errori, 400 Ecce ad esempio in Lutero, eccetera. Ecco, l'opera del Pallavicino non riuscì a imporsi come quella del Sarpi. Quella del Sarpi ha più verf, scrive bene, ha un filo rosso, non affastella semplicemente materiale. Il Sarpi sa dove vuole arrivare, è un discorso molto, molto tirato, molto, diciamo, incalzante. Quello di Pallavicino sta sensibilmente più indietro rispetto a quello del Sarpi, anche se è più documentato, e giustamente anche l'indagine di Iedin ha dimostrato che le correzioni del Pallavicino al Sarpi sono obiettive, no? Pallavicino stesso dice che la sua è una storia mista d'apologia, anzi più veramente un'apologia mescolata di storia. Dunque è onesto, lui sa bene, in fondo sa per che cosa scrive, non per fare la storia del Concilio di Trento, anche se sta facendo quello, ma per fare la confutazione di Sarpi. Questo è anche la sua debolezza. Il contenuto stesso però è pregevole, veramente lì insomma c'è un lavoro sulle fonti. Anche Sarpi aveva cercato di lavorare sulle fonti, ovviamente non quelle vaticane, ma in tutti gli stati italiani, non romani, insomma non papali, lui si era dato da fare per farsi mandare fonti, e c'è stata anche una discussione, forse Sarpi ha avuto delle fonti che noi non abbiamo per dire certe cose. Sarpi ha detto anche di Leopold von Ranke, che diciamo tutto dire, alle volte è spregiudicato nell'utilizzo delle fonti, lì dove riscontra delle lacune, diciamo le colma un po' a suo modo, soprattutto la lettura è molto condizionata, ormai lui era diventato il rappresentante della linea antipapale. Certo che Sarpi è veramente il primo che ha voluto andare dietro semplicemente alle quinte. Non risulta però che tutto sia stato un intrigo, questo è il risultato già del lavoro di Pallavicino. Debolezza del Pallavicino è che lui non aveva a disposizione fonti francesi e spagnole, e queste sono le fonti che interpretano l'opposizione, e dunque le posizioni e le ragioni dell'opposizione in Pallavicino non trovano un riscontro sufficiente. Sarpi viene edito ancora oggi continuamente, anche negli anni 80, ma viene continuamente edito. L'ultima edizione del Pallavicino in italiano è del 1792, questo lo dice chiaro. Entro 10 anni Sarpi aveva già traduzioni in latino, lui scrive in italiano, in latino e poi in tedesco, in francese e in inglese, entro 10 anni. Pallavicino ebbe la sua prima traduzione tedesca nel 1835. La storiografia successiva fu tutto quanto un pro e contro Sarpi e Pallavicino. E bisognerà aspettare il 1800 per poter andare oltre questa gabbia controversistica. No. E vengo appunto un pochino al 1800, quando la storia del Concilio diventa un po' scienza. comincia a diventare scienza e, diciamo, l'approdo finale sarà la pubblicazione delle fonti della Goethe-Gesellschaft, di cui ho parlato prima, e soprattutto i 4 volumi in 5 tomi della opera Il Concilio di Trento di Hubert Hiedin. No. Allora, è interessante l'interesse per il Concilio Tridentino nel cattolicesimo tedesco, specialmente nell'epoca della Restaurazione. E poi il cattolicesimo tedesco, specialmente quello renano, è sottoposto alla Prussia luterana. E dunque i contrasti confessionali mettono un po' alle corde questo cattolicesimo, e allora la disputa vecchia Sarpi-Pallavicino rischia di riemergere anche in questa epoca qui. Interessante la posizione di Leopold von Ranke, questo importante storico luterano, lui stesso, ma il fondatore quasi della disciplina storica con il metodo critico moderno. E praticamente dice, lui fa delle critiche sia a Sarpi che a Pallavicino e dice siamo ancora agli inizi. Anche dopo Sarpi e Pallavicino, una vera storia del Concilio di Trento è ancora da fare, così scriveva nel 1836, non ho qui lo riassumo. E dice, ci vuole una base documentaria più allargata per scrivere bene questa storia. Ma dice, questa fase è rimasta famosa, chi vorrebbe fare questa storia in base ai documenti non lo può fare perché non ha i documenti. Chi lo potrebbe fare perché ha i documenti non fa la storia. No? E qui è chiaro, questa è una critica alla politica romana di non fare la pubblicazione di tutte le fonti e di tutti gli atti del Concilio di Trento. E dice la verità non starà probabilmente né con Pallavicino né con Sarpi, starà nel mezzo. Però dice il fatto che noi diciamo il fatto che probabilmente la verità sta lì, questo non ci autorizza a costruirla noi, anche se è nel mezzo, sarà sempre un frutto inedito delle fonti, dunque finché non ci danno le fonti non potremo scrivere la storia del Concilio Tridentino. Lascio altri aspetti. E finalmente, ecco, verso nella seconda metà del 1800, la disciplina storica fa passi così in avanti che anche le istituzioni più prestigiose non possono più permettersi di sequestrare i documenti, diciamo, no? E comincia a rendere accessibili agli studiosi l'archivio Vaticano, gli archivi vaticani. Aveva già cominciato prima di lui Lemmer e poi anche Pastor a scrivere la storia dei papi e per controbattere quella di Ranke. Il Papa si era accorto che aprendo gli archivi il papato non aveva niente da perderci, veniva fuori una storia che non gli si rivolgeva contro. Qualcuno però continuava a dire è opportuno non farlo perché non sappiamo bene che figura ci farà il Pallavicino se noi mettiamo a disposizione tutte le fonti. In realtà anche il Pallavicino non ne è andato di mezzo. E cominciarono i gesuiti, proprio l'ordine di Pallavicino, a editare al completo le fonti tridentine provenienti dal loro generale Diego Lainez, che era qui a Trento. No? Bene, nel 1993 parte il progetto dell'edizione delle fonti, e negli anni 20 comincia a lavorare sul Concilio di Trento anche Hiedin. Beh, ormai appunto le fonti sono tutte aperte, il problema è di rendere gli atti, di fare una pubblicazione che sia all'altezza degli atti, no? E nel 1949 Hiedin comincia pubblica il primo volume della storia del Concilio di Trento. È dedicato alla preistoria del Concilio, cioè da Basilea, lo scioglimento di Basilea, 1447, così, e fino al 1545. È un volume bellissimo, un'impressione enorme quando venne pubblicato. La traduzione del resto è buona. Jedin scrive molto bene, chiaro, non è mai contorto, si legge proprio con piacere. Ecco, si pone il problema: perché così tardi? E fa qui una delle sue affermazioni più sbilanciate, forse più azzardate, perché gli storici di solito evitano di parlare con il sé. Dice: se il concilio fosse stato convocato nel 1525 invece che nel 45, forse il corso della storia europea sarebbe stato diverso. Bene, immediatamente, in un paio, due o tre anni, 100 recensioni a questo primo volume di Jedin. Poi esce il secondo volume nel 57, 8 anni dopo dunque, che comprende il primo periodo a Trento, 1545-47. Poi nel 70, 13 anni dopo, il terzo volume, che contiene il periodo bolognese dal 47 al 49 e poi secondo periodo triventino 51-52. Poi nel 75 il quarto volume in due tomi, dedicato al terzo periodo a Trento dal 61 al 63. Ecco, io avrei qui una serie invece di giudizi sul Triventino tratti da manuali di storia della Chiesa e lessici teologici attuali, ma mi rendo conto che il tempo è